questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. È tornata! Sì, sono tornata. Beh, sono tornata già nelle due ore precedenti, però sono tornata anche in Radio Tube. Ti sono un po' mancata? No. Devi mentire. No, perché io mi sentivo in podcast le puntate in cui c'eri. sì, facevo, sai quelle cose che si fanno, no? Sì, mi sentivo le puntate di quando eri dolce, prima di diventare cattiva. Sì, esatto, sì. L'anno scorso, quelle belle puntate rilassate. Vabbè. Cosa dice il copione di questa trasmissione? Il copione dice che intanto dobbiamo ricordare che questa è la terza ora del sabato del villaggio ed è quella che io preferisco, che è quella in cui noi parliamo. A tutti, no, i colleghi bravissimi di Radio 24. Nessuno, no, lo dici lo a tutti. Vabbè, è l'ora nessuno. Che preferisci perché è l'ultima e dopo vai a prendere l'aperitivo. Dopo vado finalmente a casa. Non è vero, sì. Non è vero. Noi invece in quest'ora sempre l'imperdibile, l'imperdibilissimo, anche perdibile della rete, anche perché ci racconta tanto di quello che viviamo nella vita di tutti i giorni. E sai cosa succede nella vita di tutti i giorni ultimamente? No, che si non litiga. Lo so. Ma perché si litiga? Ma infatti. Cioè, questo fatto qua, sai cos'è secondo me? La gente non ne può più della televisione. Io ormai inizio a pensare che sia un problema nei confronti dell'elettrodomestico. Ah, proprio della scatola? Sì, perché ormai scatola. Noi siamo abituati a tante altre cose. Lo smartphone, il computer, la radio che sta tornando, la grande, no, per fortuna, tutto il resto. La televisione ci sta diventando antipatica. C'ho questa tesi. Anche quelli che fanno la televisione non ne perché quelli più. Che fanno la televisione sentono dall'altra parte. Sai come nei rapporti di coppia, quando senti che l'altro è nervoso, anche tu diventi nervoso, giusto? Mm. E l'insicurezza chiama insicurezza. Quindi la gente che fa televisione sente il telespettatore sempre meno sicuro di guardare la televisione perché ha mille altri modi di farlo. Vabbè, fermami prima che dica qualunque cosa. Dico solo una parola. Dico Morgan. Morgan si è arrabbiato, ma lui si arrabbia sempre. Ma poi soprattutto ogni volta X Factor dice è la settimana in cui va o è la settimana in cui resta? No, questa è la settimana in cui è tornato ma non gli è andata benissimo dal punto di vista della gara, ma soprattutto questo è 10 anni che eliminano tutti i suoi. No, beh, però guarda che un po' di cose lui le ha azzeccate, sì. Nella vita, un po' di cose, no, le ha, certo, nella, nel senso della vita, no, anche come giudice. Il problema è che stavolta aveva i gruppi, non era proprio la categoria più facile. A un certo punto lui ha detto no, basta, me ne vado e non torno mai più. Deve averlo adesso. Io ho perso il conto, ma avrà detto 25. Era già tornata la Carini sabato scorso, sì. Mi ha detto che è tornato. Ma certo, è tornato e ha litigato di nuovo. Senti però stavolta qua, senti qua la scenata che ha fatto con gli altri giudici nell'Extra Factor, appena dopo l'X Factor. Extra Factor, già come nome. Io voglio dire una cosa, ecco, senza Morgan questo show non sarebbe. Non sarà mai più la tomba. Ragazzi, guardate che il motivo per cui io mi sono ritornato è solo per salvarvi. Per salvarvi. Non posso dire quello che penso. Non posso dire anch'io che il caso che penso di niente. Allora, ma adesso diventa prepotente. Solo se calmo i toni, perché se ho i toni non interessa. No, allora ditemi anche come devo dirlo. No, sei come la tata alla tua maniera. Come mai? A voi proprio realmente non interessa, cioè questo è il fatto. Non solo non interessa quello che dico adesso, non interessa di me, ma non interessa proprio l'aspetto umano, cioè Morgan già è sempre interessante. Più debole, è ancora più interessante. Diciamo Morgan è interessante. Che Morgan con le zavorre è quello che ci vuole per un questa po' edizione, bugiardo, o ma no? Però non bugiardo è. Un cazzo, bugiardo. Sei un po' bugiardo Morgan, in senso buono, buono. Ma dovete smettere di trasformarmi in un pagliaccio? No. Io non accetto la televisione, mi fa cagare. Perché la fai? Ascolta. Ma perché la fai? Secondo me è bellissimo. Io non accetto la televisione. Ma io sto con ma lui. Scusa, ma perché la fai come... allora? No, capito. Ma allora però se lui c'è non gli possono dire no, devi parlare così, devi parlare cos'ha. Cioè, ti ripeto, è come nei rapporti di coppia. Ma che significa? Cioè, Morgan è Morgan. Non è che puoi dire vogliamo Morgan però coi toni di, che ne so, della Maionchi. Però non puoi neanche dire la televisione mi fa beep e però... Sì, d'accordo, certamente. Vabbè, perché poi dopo ti arrabbi, esci, è tornato Marco Travaglio da Santoro. Anche Marco Travaglio se n'era andato, no? Da Santoro, ha detto io me ne vai, e poi dopo è tornato, e poi dopo si è riarrabbiato. Insomma, la televisione è fatta di queste cose, anche della radio. Me ne posso andare? No, adesso ti leggo alla basta, sedia. Basta, non voglio farla la radio con i toni che vuoi tu, agli orari che vuoi tu. Senti, vuoi fare come Santoro che manda tutti a fan... No, qua però c'ho una tesi politica, eh. Hai una tesi politica sui baffa di Santoro? Sì. Allora, hanno non uno... Non sentiamoli, perché poi ci chiudono. Possiamo? Ma mica li abbiamo detti lui, li dice lui. Ho capito, ma noi adesso siamo in fascia protetta. Per interposta persona. Allora facciamo che... Mandiamolo, se qualcuno ha dei bambini che non sono abituati, ad esempio, già a ascoltare la zanzara, per dire... No! Un attacco a una trasmissione amica! No, ma no, per dire, se già sono abituati, non si scandalizzano... Cruciani, perdonala! A sentire quello che ha detto Michele Santoro in apertura. Ad anno uno. Questa è la marcia degli incazzati, questa è la marcia degli arrabbiati, sono incazzato. Sì, incazziamoci tutti, fanculo ai partiti, fanculo ai politici, fanculo Berlusconi, fanculo Monti, fanculo Alfani, Fini, Casini, Vendola, fanculo pure i movimenti, fanculo Beppe Grillo, che ha trasformato una grande speranza in una specie di stato di bananas con epurazioni, espulsioni, e fanculo Renzi. Sia ben chiaro, io non dico che chi non vota sbaglia, solo è bene che sappia prima di non votare perché non vota. Ho passato così tanta parte della mia vita a farvi incazzare che vedervi incazzati alla boia mi fa incazzare con me stesso. E mi dico da solo, smettila di lavorare, Santoro. Incazzati a bestia e se vedi uno calmo, gridagli anche tu. Questa è la marcia degli arrabbiati, questa è la marcia degli incazzati. Com'è stato sto Santoro? Sì, no, infatti, cioè... Allora, tu sai com'è nato il movimento di Grillo? Sì, è nato con un Vaffadè. Sì. E guarda caso, Michele Santoro, che su certe cose ha fiuto notevole, il giorno prima che Beppe Grillo abbia manifestato la sua stanchezza, ha detto sono un po' stanchino, sì, come lui Forrest dice, Gump. Come Forrest Gump, lui dice una serie di vaffa. È come una specie di passaggio di testimone. Ora, io non dico che Santoro si voglia candidare alla guida del Movimento 5 Stelle, peraltro nella stessa puntata anche Travaglio ha lasciato presagire questa cosa qua, però da un punto di vista ideale, come guru, come leader intellettuale, la puntata di anno 1, quella lì, ha segnato una sorta di passaggio di fase con Michele Santoro e Marco Travaglio, magari glielo chiederemo, che in un certo modo si vogliono proporre come potenziali guide, magari fuori dalla politica, nel mondo della televisione, di un movimento che forse in questa fase al vertice ha una crisi. Questa è la mia tesi. Ah, beh, coraggiosa. Quindi tu stai pensando già a nuovi schieramenti politici. No, schieramenti politici no. Peraltro Santoro è stato anche eurodeputato, certo. Quindi un po' però una roba un po' nuova. Una cosa un po' nuova, vedremo. Nel direttorio non ci sono i due, però monitoreremo. Anche perché i due non so se si vanno d'accordo oppure no, Santoro. È anche la fase delle coppie che si scoppiano in televisione. Chissà se anche alla radio. Alla non radio, lo so. Guarda, dopo questa puntata molto probabile. Non Pinuccio? Non lo so. C'è Pinuccio per mettere pace. Non facciamo in tempo a ascoltare Pinuccio. Dai, lo recuperiamo dopo perché adesso abbiamo il traffico. Ma Pinuccio, per mettere pace. Dai, dai, dopo ascoltiamo traffico del villaggio, il tuo traffico preferito. Radio Tube. Daniele, hai detto che tutti sono arrabbiati con la televisione e anche quelli nella televisione. Sì. Ma invece quelli che fanno la rete, sai che c'è un sacco di gente che adesso invece è in rete e va fortissimo e per ora non ha ancora fatto la televisione. Sì, e noi potremmo anche fare un esperimento. Cioè, dopo aver mostrato alla radio i video, sì, proviamo a mostrare alla radio i videogiochi. I videogiochi? Sì. Tu, facciamo questo esperimento. Sì, facciamo 3, 2, 1. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Sono FaviJ ed oggi siamo in un nuovo vlog. Quanto è bello. No, ogni volta che torno a fare un vlog mi sento tipo a Natale, una cosa più o meno. Vabbè che scarto i pacchi, quindi più o meno siamo lì. Comunque ragazzi, prima di cominciare e iniziare con la fan art della settimana, che questa settimana è stata vinta da... Non mi ricordo chi l'ha fatta. Non mi trucidate, ragazzi, ma non mi sono scritto il nome, quindi pazienza. Comunque è bella. Ah, ma c'è scritto il nome, questo? C'è scritto M. Questa è una M, questa qua. Punto, appunto. Quando sono tornato dall'America, praticamente la settimana scorsa, la prima cosa che ho letto è Favi continua Alien Isolation. Porca troia. Non so come spiegare. Non è che sto scappando da Alien Isolation perché mi fa paura. O forse sì. Dice anche un po' di parolacce, per questo mi piace molto. Non so neanche cosa sia Alien Isolation, ma noi abbiamo già sentito che lui è Favi J. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti. Lorenzo Stuni, sì. Però Favi J. È un gioco? Ma no, in realtà è un nickname che ho preso da un videogame tempo fa. Comunque non è un problema perché anche i miei genitori iniziano a chiamarmi Favi J. No, addirittura. Ormai è così, pazienza, cambierò nome, lo faccio prima. Comunque, sai che il numero dei tuoi iscritti al canale YouTube cambia in continuazione. Sono oltre 1.300.000, non do la cifra precisa perché tanto tra 5 minuti sono ancora di più. 114.116.472 visualizzazioni. Ma guarda che fa, cioè lo guardano, ma no, non sono davvero milioni. Ma a te com'è venuta questa idea? No, perché siccome io sto ancora cercando l'idea geniale che mi faccia svoltare la vita, a te com'è venuta finché questa? Finché lavori con me sarà dura. Non è stata proprio un'idea immediata, nel senso, ho aperto questo canale con dei miei amici, non il mio, avevo un canale precedente su YouTube. E con dei miei amici abbiamo iniziato a fare video su videogames e poi niente, io ho iniziato a fare video per conto mio circa all'inizio del 2013 e oggi siamo arrivati a questo. Quindi non è stata proprio un'idea immediata, ma più che altro un passatempo che poi si è evoluto in tutto questo. Bagni di folla ultimamente da parte dei ragazzi? Sì, anche questa cosa è molto molto strana, nel senso che, a parte che io sono un ragazzo, anche se non si direbbe dai video, io come persona sono un ragazzo molto timido, quindi quando succedono queste cose io mi rannicchierei nell'angolo, inizierei a piangere dalla timidezza, però non lo faccio perché ho una certa dignità da mantenere, però mi fa molto strano anche a me, non è una cosa, fa strano a voi ma anche a me sicuramente. Una cosa che io ho letto, vabbè, ci saranno libri, figurine, film, farai l'attore, ma da grande tu vuoi fare il montatore, vero? Beh sì, questa cosa mi è sempre piaciuta, nel senso, tra l'altro è anche, diciamo, una cosa che faccio già adesso, nel senso io monto i miei video, ci impiego circa un'ora per registrarli e 6 ore per montarli, quindi il montaggio è una cosa che mi piace fare. Quindi in teoria fare il montatore a livello cinematografico sarebbe un grandissimo sogno da poter realizzare. Comunque io qua sto parlando di montaggio, mentre io in realtà vorrei fare proprio effetti speciali e dovrei studiare. Per il cinema? Se si riuscisse a fare per il cinema sarebbe molto gradita come cosa. No, perché tra l'altro i tuoi video, cioè, sembrano semplici, nel senso che tu parli tantissimo, spieghi i videogiochi ma anche i film che ti piacciono eccetera. Lo dico perché tra i nostri ascoltatori ci sono anche magari i genitori che vogliono capire. Tutorial per videogiochi, sono parodie di tutorial, non so, no, come si può spiegare? Come possiamo spiegarlo? Come passare la noia. Questo è bello. Però, in modo migliore. Però magari un però video... ci sono immagini che passano sopra, ci sono giochi, ecco, rumori, quindi c'è molto del montaggio cinematografico. Sì, in realtà sì, anche perché i miei video, anche se durano 7-10 minuti, comunque c'è un gran lavoro dietro che a volte non sembra, perché magari uno spettatore vede quei 7-10 minuti, pensa che sia quello il tempo che si impiega. Comunque c'è un gran lavoro, anche se non sembra, perché lo faccio molto a livello amatoriale. Comunque sì. Chissà se lo facesse professionalmente queste visualizzazioni. Beh, ormai professionalmente milioni. Ma senti, ma ti fa più paura la popolarità, la rete o i videogiochi? Ma è un po' un mix questo, diciamo, i videogiochi giocano anche la loro parte, scusatemi il gioco di parole. Comunque la popolarità in realtà sì, è da tenere un po' sott'occhio, perché ultimamente ci sono molti amici, tra virgolette, però io sono sempre rimasto fedele a quei pochi che avevo prima, perché ripeto, io sono un ragazzo molto timido, quindi prima di diventare YouTuber io conoscevo 4 persone in croce che sono i miei amici migliori tuttora, che sono rimasti con me e che mi supportano, quindi... cerco di non dar peso alla mia vita, con la popolarità cerco di non invadere la mia vita privata, quindi sì, è un po' è spaventosa come cosa. Vabbè, adorabile. Ma i videogiochi, per qual è il segreto del successo dei videogiochi? Sono una cosa importante della realtà, un modo per scappare dalla realtà? Perché piacciono così tanto? Beh sì, in realtà è giusta questa cosa che hai detto. Io ho sempre amato i videogames perché nei videogames si possono fare cose che nella vita reale non si possono fare, e soprattutto si possono impersonare personaggi, anche questo è un gioco di parole, però diciamo si possono fare missioni, si può esplorare. A me piace molto esplorare, infatti io sono molto più sui videogiochi dove si esplora. Quindi tutte queste cose che normalmente sono difficili da raggiungere nei videogames sono più immediate, quindi piace molto a noi ragazzi in generale. Pensa che io al massimo potrei fare un tutorial di Candy Crush, cioè il mio massimo. Come lo odio quelli che ti invitano a giocare su Facebook, bisognerebbe bloccare questa cosa. Esatto, concordo. Ah, vedi che sono autorevole. Ma senti, ma tu ti senti un guru della rete? Ti fa paura se le persone ti immaginano come un guru della rete? Beh, diciamo di sì, perché comunque è una gran responsabilità. Io mi sento Fabij, nel senso il ragazzo che si spaventa, che urla e fa il pazzo davanti ai videogames e basta, cioè indipendentemente dai numeri eccetera, io faccio questo, mi diverto, e quindi guru o no, mi diverto e basta, cioè come mi vedono gli altri a me va bene, cioè io sono, non faccio il presidente dei videogiochi, sono solo un youtuber. E lo faccio a modo mio. Ti posso fare una domanda personale? Io ho un bimbo, certo, di 6 anni e mi chiedo spesso come faccio ad aiutarlo a entrare in contatto con la rete, ma anche sapendo che ci sono dei rischi. Tu te lo sei mai posto come problema? Assolutamente sì. Beh, la rete in questo momento... Dammi un consiglio. Beh sì, diciamo che bisognerebbe limitare molto la visione, perché sul campo del web in questo momento ci sono molti siti pericolosi. Ad esempio uno che secondo me è molto pericoloso è Ask, che è un sito dove si possono fare delle domande, sì. Molte persone, molti ragazzi magari ricevono domande scomode del tipo perché sei così brutta, una ragazza che magari se la prende, e ci sono anche casi tragici, quindi bisogna ben limitare tutto questo e tenere sott'occhio i più piccoli. Comunque, se utilizzata con cognizione, la rete è un ottimo strumento, assolutamente. E niente, quindi un occhio di riguardo non guasterebbe, tutto qua, per iniziare, poi si impara pian piano da soli. Io ho iniziato molto presto a navigare, ma da solo mi sono reso conto fortunatamente che ci sono certi siti, certe cose a cui non bisogna dar peso sul web. Anch'io ho iniziato molto presto a navigare, ma c'avevo 20 anni perché prima non c'era internet, questa è la differenza. Non siamo nativi digitali, non no, sveliamo sì, questo segreto. Un filo meno. Siamo scuole medie digitali. Liceo, non mi ricordo digitale. Neanche tanto bene. Tu ti ricordi il tuo primo incontro? Io mi ricordo tutto. E tu, Fabij, ti ricordi il tuo primo incontro con la rete? Beh, diciamo il mio primo incontro con la rete ha dato vita proprio al nome Fabij, perché poi quando ho iniziato a... io ho conosciuto internet giocando online, quei videogame online, poi ho iniziato a navigare. E il mio primo videogame online ho incontrato... Videogame online sarebbero i videogiochi dove puoi interagire con altre persone proprio in tempo reale. E adesso è molto diffusa questa cosa, anzi si gioca così solo online. Il primo videogame online in cui ho giocato, il personaggio che ho incontrato si chiamava Fabij, e proprio da lui ho preso il nome, perché mi aveva stupito, mi sembrava una tecnologia aliena il poter interagire con un'altra persona, e gli ho praticamente ho attinto da questa persona il nome, l'ho utilizzato e niente, comunque sì, me lo ricordo perché è proprio una storia legata al mio nickname. Bello, identitario. Mi piace sto ragazzo, sì, molto, mi sembra molto, saggio, molto, cioè molto. C'ha 19 anni eppure, cioè, ma mi sembra... No, assolutamente. Mi sembra un ragazzo con quello che fa lo dimostra. Una gran testa sulle spalle. Allora, noi continuiamo a seguire molto. I tuoi video e ci divertiamo molto. Di la verità, non è ti spaventi per finta, non è vero che ti spaventi quando giochi ai giochi. È bello dai. Quando il computer si muove. Negli ultimi basta che guardi le mie cuffie rotte, non so se la pensano allo stesso modo, perché non l'hanno Anche qui ne abbiamo di rotte, si litiga anche qua. Vabbè. Anche voi. Sì. Noi ce le tiriamo in testa. Ti ringrazio davvero tanto, grazie, Lorenzo. Grazie, consigli. Grazie a voi. Grazie a Fabij. Ciao. Che meraviglia, abbiamo avuto Fabij. Se mi ascoltavi un anno fa, noi era minorenne, non si poteva. Non si poteva perché era minorenne. Va bene, bravo, traffico. Bravissimo questo ragazzo. No, c'è una breve pausa. Ah, una breve ci ritroviamo pausa. Tra poco e poi abbiamo ancora un altro ospite grandissimo. Tra poco. insieme dopo aver incontrato lo youtuber più famoso di tutti. Ma, diciamo, ma che saggio, mamma che saggio. No, ma pazzesco. Educazione civica alla rete. No, veramente. Ma ti sei fatto anche dare i consigli. Mi sono fatto dare i consigli per Rocco. No, ma guarda che molti genitori si pongono il problema del rapporto con la rete. Comunque. Eravamo rimasti che dovevamo sentire Pinuccio. Sì, è vero, perché l'avevamo così evocato Pinuccio, perché il nostro Pinuccio che ci piace tanto, sai cosa ha fatto? Sì. Allora, siccome la scorsa settimana gli ascoltatori forse lo sanno, io non c'ero perché insomma avevo un po' di cose. A volte la vita è più forte della radio. Scherzavo prima. Non ci credo neanche un po', però sì? Non importa. Sai che su cosa è tornato Pinuccio? No. Su Ladylike. Io sono poco Ladylike. Io sono un po' più camionista like come donna. Non è vero, di persona non è vero. Però ci serve per presentare il nostro ospite, quindi... Vabbè, allora, Pinuccio cosa ha fatto? Sì. Ha deciso che di fare un'intervista doppia, sì. Lady Moretti, e lui ha fatto Lady Peroni, ovviamente. Lady Peroni, benissimo. Hai capito? Lady sì, sì, messo una roba di birre. Io sì, ci ho messo un po' a capirla. Essendo maschio. Vabbè, guardiamolo insieme alla radio. Sì, guardiamolo. Cosa faccio da estetista? Qualsiasi cosa, cioè qualsiasi cosa. Mi prendo cura di me. Mi faccio le mesh, mi faccio la tinta, poi non entriamo in altri particolari. Io all'estetista non vado dall'87, da quando mi sono sposata. E poi mo la tassi e mo il bollo la macchina e non c'avevo mai una lira, e quindi me li faccio io in casa, diciamo, anche se non sono tanto bravo, vedete, mi è cresciuta la barba. Il nostro stile di fare politica è uno stile ladylike, cioè uno stile che deve piacere. Il mio stile è Lady Peroni, nel senso che ogni tanto per dimenticare mi bevo 2-3 Peroni. La mia canzone preferita, ne ho due ultimamente: Mino Raitano. Rino Gaetano, mano a mano. La mia canzone preferita è quella di Gigi D'Alessio. No, scusate, mi sono confuso, scusate, no, volevo dire Mozart, ascolto la musica classica, mi confondo sempre tra queste due cose, eppure me ne l'ho segnato. Allora, noi abbiamo in studio... Secondo me si è offeso. Secondo me si è offeso perché gli abbiamo toccato la Moretti. No, dopo dobbiamo parlare di cose molto serie. Però, prima delle cose molto serie, volevo sapere, ma Ladylike, Christian Rocca, direttore di Il Magazine, come si traduce? La prendo alla lontana, diciamo. Ma io devo confessarvi una cosa, scusate intanto la voce, ma è così. Sì. E, mia figlia, in questi giorni, che ha 2 anni e mezzo... Ecco. Esatto, guarda un cartone animato, gli Aristogatti, e li guarda in inglese, The Aristocats si chiamano. Sì. E a un certo punto, proprio all'inizio, c'è la più aristocratica dei gatti, che a un certo punto dice I'm Ladylike. No, sì, quindi in realtà era una citazione degli Aristogatti. Una citazione coltissima dell'onorevole Moretti, dell'europarlamentare Moretti, probabilmente prossimo governatore della addirittura regione. Addirittura del stellare. Meno male che non siamo ancora in par condicio. Delle stelle proprio, un po' di parte. Questo, sì, un ma come facciamo adesso a scendere da Ladylike o salire porgo a te. No, fai solo un po' di silenzio, secondo me. Un po' di silenzio dopo Ale Moretti. Ma dunque, questa settimana è tanta roba, cioè come si scrive lì su Twitter? Questa settimana, nel senso che è uscito ieri, cioè il calendario è un mensile, ma è questa settimana, noi facciamo il rotocalco della settimana. Tanta roba, nel senso che, dai, raccontacelo tu, Christian. Beh, abbiamo questa copertina che credo si sia notata sui social network che voi frequentate. Sì, ecco, questo fatto. Insomma, abbiamo fatto il magazine più letto su Twitter, diciamo. Esatto. Questo è una cosa, diciamo, sostanzialmente un po' negativa come pubblicità, però è così. Abbiamo chiesto a due grandi leader della sinistra degli ultimi 20 anni, Tony Blair e Bill Clinton, e ai loro due eredi oggi al governo, Matteo Renzi e Manuel Valls, il primo ministro francese, di raccontarci la loro idea di sinistra di governo. E devo dire che tutti e quattro hanno risposto favorevolmente a questo nostro input e hanno scritto degli 4 articoli che abbiamo pubblicato. Quindi completamente inediti e in esclusiva per il... Esatto. Ogni tanto capita, facciamo anche noi le logiche italiane delle esclusive mondiali. Sì. Ma perché la terza via oggi? Sembra una cosa che uno dice, vabbè, la terza via 15 anni fa, tutto finito, globalizzazione, liberismo. Beh, diciamo che lo spunto è perché 15 anni fa, proprio in questi giorni, c'è stata la seconda riunione, conferenza della terza via, che mise assieme i leader della sinistra internazionale, e questa riunione si svolse a Firenze. Diciamo, questo era lo spunto di attualità. Ma l'attualità il fatto che due degli esponenti che politici che in questo momento sono al governo, appunto Renzi e Valls, si ispirano apertamente a questo modello di approccio di sinistra al governo. Tu dici la globalizzazione, ma quella cosa lì che è stata, diciamo, cavalcata da Tony Blair in Gran Bretagna, da Bill Clinton, da Al Gore negli Stati Uniti, è diciamo, quella che ha vinto, cioè noi siamo in mezzo alla globalizzazione che nacque proprio in quegli anni. Per cui che ci siano adesso due giovani premier e con un consenso più o meno forte nei rispettivi paesi, che su queste basi, senza le ideologie del passato, senza gli scheletri dell'armadio del passato, vogliono continuare ad affrontare i temi della globalizzazione, e credo che sia abbastanza importante e inedito. Però vorrei anche un po' coinvolgere Christian Rocca. Insomma, abbiamo un po' di regioni hanno votato, sono successe un po' di cose, molti italiani hanno votato, molti italiani non hanno votato. Però erano due regioni. Però secondo me... Non gli fare la domanda sull'astensionismo. No, però vorrei invece tornare al mio amato Maurizio Crozza, perché ha trovato veramente la lettura giusta sull'astensionismo. Allora, nel Sabato del Villaggio abbiamo avuto Tiziano Ferro. Sì. E la lettura giusta è del suo nome. La lettura giusta? È il rosso relativo. Eccolo qua. Compagni avanti gran partito, suor Rossi tutte le regioni, l'Italia un popolo impazzito, comunista per astensión. Compagno Giova. Veniva Giova, è bastato far sparire la sinistra per far diventare l'Italia rossa. Top, ciapa. Ecco, però diciamo che devo dire la verità, con Renzi è un rosso relativo, eh? Il mio rosso relativo, la sinistra è sparita con me, opla! È stato cattivo stavolta Crozza, sai? Sì, poi era molto cattivo anche tu a inserirlo. Non è di sinistra, Renzi non è di sinistra, la Cagnola e Crozza. Ma io su questo sono un po' di parte, non su Renzi ma su Crozza. Crozza secondo me non fa ridere mai. Mai, non ti ha mai fatto ridere. Mai, ma proprio ma una volta. Forse una volta quando faceva Ingroia, non lo so, ma non mi ha mai fatto ridere. Comunque, il punto della sua tesi, che è anche questa abbastanza diffusa. Banale, abbastanza diffusa sulle prime pagine di tutti i giornali, si legge quella, è che è alla base di una mistificazione abbastanza palese. Cioè, loro confondono la parola sinistra, la tradizione sinistra, la cultura politica della sinistra con quella del Partito Comunista Italiano, che non è così. Cioè, in Italia c'è stata questa abbastanza identificazione, abbiamo avuto il Partito Comunista Italiano più Partito Comunista più importante dell'Occidente, più grosso dell'Occidente, ma nel resto del mondo la sinistra non è comunista. Negli Stati Uniti non è mai stata comunista, è stata anticomunista. Il sindacato americano è il più feroce anticomunista negli anni d'oro. Addirittura da lì sono nati i neoconservatori, ma lasciamo stare questa cosa, è un po' troppo complicata. Per cui questi qui, un po' nostalgici, che se la prendono poi con Renzi, che avrebbe tradito la purezza della tradizione, in realtà confondono sinistra con Partito Comunista. La sinistra è anche liberale. In America quelli di sinistra si chiamano liberal, che, se non ho capito male, forse bisogna chiedere alla Moretti, che sa bene l'inglese, Lady Like, eccetera. Liberal vuol dire Marta è linguista. Liberal però vuol dire liberale, non è che voglia dire un'altra cosa grave. Senti, ma per tornare a questo numero pazzesco di Il sulla terza via, a parte l'età, che cos'ha in comune e che cos'ha di differente Matteo Renzi rispetto ai leader dell'allora terza via, Blair, Clinton? Entrambi, cioè sia Blair che Clinton, hanno fatto una cosa che hanno un po' rotto, diciamo, con una tradizione, diciamo, del loro partito, soprattutto Blair, che invece la tradizione del partito laburista era molto più forte, più socialdemocratica. Più socialdemocratica, sì, e anche, insomma, anche molto socialista. Gli americani, ovviamente, diverso, come ho detto, però comunque gli americani venivano, diciamo, dagli anni del Vietnam, eccetera. E sia Clinton che Blair hanno rotto con, soprattutto sui temi del welfare state, del rapporto con il sindacato, hanno rotto con la tradizione, con la storia recente del loro partito. Blair ha rotto il legame tra il Partito Laburista e i sindacati, che era un legame stretto, proprio statutario, e Clinton ha detto quella famosa frase: è finita l'era del big government, è finita l'era dello Stato statalista. E Renzi sta facendo la rottura, la stessa cosa. E di diverso? Di parte diverso, l'età, che è ovvio. Di diverso è evidente, cioè Blair e Clinton hanno individuato nel cambiamento che era in quel momento rappresentato dalla globalizzazione, dalla possibilità di esportare i diritti economici, i diritti personali ovunque, e hanno cavalcato quell'idea l'hanno portata, diciamo, alla situazione di adesso, che a noi ci sembrerà negativa, ma in realtà ha tolto dalla povertà alcuni miliardi di persone e ha raddoppiato la ricchezza mondiale. E ovviamente la differenza è proprio questa, cioè che Renzi arriva in un momento in cui questa cosa è stata già fatta, e soprattutto in un momento di depressione, di crisi globale. Esatto. Come vola il tempo quando ci si diverte. Si parla anche di Matteo Renzi, che, come sai, non ogni volta mai. Tu dici perché voglio sempre perché parlare tu questa, di Matteo Renzi. Sai, l'anno scorso ne parlavo sempre io, adesso ne parla sempre Marta. Sul carro del vincitore. Esatto, della prima. Però vi vorrei invitare a leggere anche un'altra parte molto consistente di questo numero di Hill, che è sulla televisione. E glielo ho detto a Marta, ma lei non vuole. A lei non le piace la televisione. Non le capisco. Lei vuole la radio. È il momento del traffico, ci risentiamo tra poco. Traffico del villaggio. YouTube. Guarda che questa volta non l'ho tirato fuori io, Renzi, Daniele. Ma hai voluto tanto parlare del numero di Hill e dovevamo un po' parlarne. Era in copertina un articolo inedito. Sai che non abbiamo mai dato i nostri account. Ma questa puntata no. Hashtag. Questa puntata no. Com'è l'hashtag del Sabato del Villaggio, quello ISDV, che assomiglia a un partito? ISDV. No, non a un partito, alle serie TV americane che fanno gli acronimi, perché insomma è troppo lungo. Cosa facevo? Cancelletto il sabato no, ma io sono favorevole agli acronimi. ISDV, no, solo, abbiamo, ma poi anche i partiti YouTube. Sono favorevoli, senza i partiti. Allora, cancelletto Radio YouTube, poi Marta Cagnola e di Bellasio. Chi è? A parte Favij, che abbiamo sentito il bello più... questo fatto che facciamo vedere che la rete è intergenerazionale, passando da Favij, Rocca e il più grande di tutti. Il tuo cantante preferito di tutti. Guarda, io mi emoziono ogni volta che lo incontro. Perché lui non è solo un bravo cantante, non è solo un signore che tra poco compie 70 anni e li porta, ma come io benissimo. E te non ci portiamo i 40. Questo non c'è questo dubbio. Proprio. Per quanto mi riguarda, soprattutto fisicamente, poi corre le maratone. Corre, no? Ha una vita sana. Gli ascoltatori hanno già capito che stiamo parlando di Gianni Morandi. Che è un recordman di Facebook. Sì, tu me l'hai detto, io non ci credevo. Hai controllato? Però questo dimostra un po' che Facebook si sta alzando di pubblico. Sì, mia mamma grandissima su Facebook. Anche il mio papà sta su Facebook. Vedi? Sì. Te l'ho detto. Sì, perché Gianni Morandi quanti like? Gianni Morandi c'ha 70.000 amici su Facebook, ma poi soprattutto si interessa molto dei like. Si interessa talmente tanto dei like che ha fatto l'ultimo disco che ha chiamato, non selfie, sai come l'ha chiamato? Autoscatto 7.0, perché dice: mettere 70 un po' mi faceva ansia, perché fa 70 anni, allora ho messo 7.0, carino. Molto però. Carino, poi ha detto che ha scelto le canzoni. La tracklist l'ha fatta scegliere i suoi amici di Facebook, dai, modernissimo. E che canzone ha vinto? Dai, sentiamo, io non so se la indovini, però guarda, ha vinto uno questa. Su mille. Senti. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Devi contare solo su di te. Uno su mille ce la fa. Hai indovinato, era su uno su mille. Sai che non lo sapevo, è vero, sì, no, diciamolo ai radioascoltatori, sì, sì, sì. Io non lo sapevo, ma perché sì, questo è un inno, oltre che una canzone, è un inno, una roba proprio liberatoria. Io gliel'ho chiesto ecco, come ha deciso di affidare ai suoi amici di Facebook la scelta della tracklist e un po' come ha preso anche i risultati di questa decisione. Eccolo qua, Gianni Morandi. Ma sì, è bello questo contatto quotidiano con gli amici di Facebook, perché la mia pagina, insomma, è nata quasi per caso e adesso tutti i giorni mi trovo ad essere in contatto con loro e mi piace sentire quello che pensano, come mi criticano, come mi prendono in giro, come mi apprezzano, come mi consigliano. E io cerco di rispondere il più possibile, anche se non riesco a rispondere a tutti, perché ne arrivano anche migliaia e migliaia tutti i giorni di messaggi. Però loro vedono che io rispondo, che quello che posso fare faccio. E una volta ho chiesto a loro proprio quali erano le canzoni che potevano rappresentare di più tutto il mio viaggio musicale, la mia carriera, chiamiamola così. E hanno fatto stilato loro una classifica, migliaia di messaggi, hanno fatto questa tracklist del disco e ci sono dentro i 20 titoli che hanno scelto loro, poi io ho aggiunto qualcosa, anche qualche canzone inedita. C'è un tratto comune nella tua quotidianità, nella tua positività, della tua pagina Facebook, è il fatto che la canzone più scelta sia stata Uno su Mille. Forse c'è voglia di forza, di positività? Pensi che sia questo il valore che tu trasmetti e che il tuo pubblico tiene caro? Ma io sempre cerco di dare dei messaggi positivi anche con la musica. Uno su Mille, ma anche C'è un grande prato verde, cioè, espressioni, si può dare di più. Solo Insieme saremo felici, Vita, cantare l'amore, cantare comunque positività è sempre stata una mia costante. È come se io non volessi raccontare le debolezze, le paure, la solitudine, la disperazione, che sono cose che ci accompagnano qualche volta, no? E quindi dare questo tipo di messaggio anche attraverso la pagina Facebook fa star bene anche me, perché insomma Uno su Mille è una canzone di una persona che è in difficoltà e che trova la forza per rialzarsi. È stata quella più significativa, più votata dal pubblico di Facebook, e credevo che forse c'era un ragazzo che come me è la canzone più rappresentativa della mia carriera, invece loro hanno designato Uno su Mille e sono felice, è una bellissima canzone. C'è una canzone che invece ci sei rimasto male che non abbiano scelto? Ma ce ne sono tanti titoli, perché sai, io ho inciso 600 canzoni, non sono tutte bellissime, che sia chiaro, però ci sono dei titoli che non mi aspettavo che, ma sai, avendone incise così tante, si poteva fare anche un altro tipo di tracklist, ma va bene questa. Io avrei voluto pensare alla mia nemica amatissima, quella sarebbe piaciuta tanto. Sei tu la mia nemica amatissima, ho visto titoli diversi, ho visto Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, ho visto Banane lampone, ma ci sono altri brani, per esempio un brano che aveva scritto Battiato per me, che era bellissimo, Che cosa resterà di me, e quello è rimasto fuori. Ma anche altri, anche tanti altri, non so, Notte di Ferragosto, oppure Si fa sera, oppure non so, tanti altri titoli, Si può dare di più, è rimasto fuori. Se l'amore è un viaggio che non è mai finito. Questa è Io ci sono, è uno degli inediti. Allora, mi avevi chiesto i like, 70.000 erano i like della foto in cui lui porgeva una rosa per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quella nella quale lui presentava il suo CD 42.000, 36.000 solo perché lui si è fotografato mentre beveva un caffè, e poi ha detto che fa un po' a gara quando vede, non so, i Club Dogo e Mischilla, dice ma quanti come ne hanno a gara con Mischilla? Eh sì, perché dice ma con loro Fedez hanno avuto quanti like, ne ho di più io, si diverte tantissimo. Lui sì, e Vasco sì. Rossi sono i due più facebookati. Allora, il numero di mi piace di amici è di 1.140.689 in questo momento. Abbiamo avuto 2 milionari di like dopo Fabi J e Gianni Morandi, vedi? Vedi la rete, ma poi età, stupendo, età diversa. Stupendo. Anche noi, io giovanissimo tu. E io un pochettino più anziana, ma però è vero. Andiamo all'asilo tutti e due, la prossima settimana vieni? Non lo so, vediamo, decidiamo, vediamo cosa abbiamo da fare. Non si vediamo sa, cosa qua abbiamo nel villaggio. Da fare qua nel villaggio di Radio 24. Sono finite le 3 ore del sono sabato. Finite del già, come passa il sì, tempo. Come quando vola, ci si come vola. Dobbiamo ringraziare Pietro Lacorte in tanto regia. Della pazienza sì, oggi. Della pazienza di queste 3 ore. Noi ci ritroviamo per sabato tutte prossimo. Tutte le 3 ore ti ha sopportato. A me solo una no, ed è bastata e no, avanzata. No, no, no, no, io cambio. Non mi possono sopportare per 3 ore tutte intere. Daniele, ci ritroviamo la prossima settimana con Radio Tube. A presto.